e gli inquirenti dicono che avevano le loro prove, ma il problema non è questo, non è tanto questo, non ha che niente a che vedere con la dinamica del rapporto innocenti colpevoli, che tra l'altro è una, come dice, una coppia che bisognerebbe un po' scardinare, la coppia innocenti colpevoli. Il mondo non è diviso tra innocenti e colpevoli, è un po' più complessa la situazione, altrimenti torniamo a luoghi della storia umana abbastanza remoti, abbastanza cupi. Quindi comunque si è suicidato, eccolo qua, ancora una volta, come diciamo sempre, è il primo impatto col carcere, quello più devastante, più tremendo. Ancora un altro detenuto si è impiccato, questa volta al carcere di Poggioreale a Napoli, ed è in fin di vita all'ospedale, 48 anni aveva, stava nel carcere di Poggioreale ed ha tentato il suicidio. Anche questo è successo il 26-27, poco prima delle 23 che è l'orario della conta serale, le guardie hanno visto questa persona nel padiglione Avellino del carcere di Poggioreale e hanno provato a tirarlo giù. Comunque lì per lì non era ancora morto, adesso è al carcere, in ospedale, però in fin di vita, e poi ovviamente nessuno ci darà più notizia di che cosa farà la sua vita. Il terzo episodio, ancora questo tremendo, Benevento, un detenuto muore in ospedale, 52 anni, come vedete l'età sono quelle intermedie, da 40 a 50 anni, non sono molto vecchi, non sono giovanissimi, la grande quantità di morti in carcere e anche di suicidi, di suicidi è un po' più bassa, intorno ai 30, tra 30 e 40, e i morti, diciamo, per patologie non curate sta intorno tra 50 e 53, 40 e 55, insomma, quello è. Comunque questo signore aveva 52 anni, quindi giovane tutto sommato, aveva problemi gastrointestinali e niente, era a Benevento, la casa circondariale di Capodimonte, si chiama così il carcere di Benevento, e dunque questa è la ricostruzione che fa il carcere. Lo scorso 21 giugno l'uomo sarebbe stato trasportato in ospedale per le condizioni di salute gravi, e poi, così dicono loro, poi improvvisamente il decesso. Ora è chiaro che se uno viene trasferito in ospedale, a meno che non ci sia ormai una situazione patologica non curata, quindi degenerata, degradata, è chiaro che non è che può morire così. Vabbè, insomma, come vedete anche le ricostruzioni che cercano poi di salvare la realtà del carcere sono fatte anche un po' raffazzonate, ma perché evidentemente c'è questa sorta di, come dire, i dirigenti del carcere sanno che in carcere si muore, loro lo sanno meglio dei sociologi, criminologi, intellettuali vari, lo sanno che il carcere uccide e che di carcere si muore, quindi loro non se ne fanno una, non vedono una particolarità, un'eccezione quando c'è un morto in carcere, è quasi una normalità, il che è vero, purtroppo basta vedere i numeri, e quindi non si scandalizzano più di tanto, fanno delle relazioni molto così superficiali, e poi queste vengono archiviate e la cosa finisce lì. Questa è la tristezza del carcere. We'll be right back. E allora veniamo a un altro problema. La fine della scorsa settimana, sabato, c'è stato un presidio sotto il carcere dell'Aquila. Il carcere dell'Aquila è abbastanza come conosciuto perché ha all'interno un reparto per detenuti e detenute in 41 bis molto numeroso, sono 131 i detenuti e le detenute sottoposte al regime duro in 41 bis, 7 sono le donne su 131 e gli altri sono uomini. La cosa drammatica è che riguarda tutto il problema del 41 bis, però si voleva segnalare gli inasprimenti recenti, non motivati da niente se non dalla volontà da parte del governo, nel silenzio assurdo, veramente omertoso, diciamo che c'è un'omertà di principio da parte di quasi tutti i giornali, il 99%, televisioni tutte e partiti politici altrettanto tutti. La cosa gravissima è che appunto vi sono già il regime 41 bis in cui viene tolto tutto al detenuto o alla detenuta, stanno in celle ristrettissime, hanno pochissime ore d'aria, uno o due, somiglia molto all'articolo 90 delle carceri speciali che introdussero nelle carceri speciali per favorire la dissociazione e il pentimento, cosa che in parte riuscì e anche adesso in parte riesce, perché anche adesso è tesa non tanto a, come dicono loro, tra l'altro con una menzogna abbastanza squallida e misera e che fa rivoltare disdegno non soltanto noi e le persone intelligenti di questo paese, ma anche e soprattutto le organizzazioni internazionali, Amnesty International, la Human Rights Watch, la commissione dell'ONU che riguarda il problema dei carcerati, che è molto grave, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, tutte queste organizzazioni hanno detto che il 41 bis e le condizioni con cui i detenuti vengono tenuti al 41 bis, a questo regime di carcere particolarmente duro, equivale ad una tortura, per i motivi abbastanza espliciti che lo stesso ONU, quando condannò le pratiche di tortura, esplicitò. L'ONU nella sua declaratoria per definire che cos'è la tortura dice: sono quelle vessazioni di carattere fisico o anche psichico, dirette o anche indirette. Indirette vuol dire che riguardano i familiari spesso, no? Cioè quelle pratiche proprio che diciamo si vedono nei film orripilanti e tutti dicono che vergogna questi regimi reazionari o dittatoriali, e però poi questi stessi meccanismi li fanno anche queste graziose democrazie europee che vanno tanto per la maggiore, comunque così, che si beano dei loro mantelli democratici. Il 41 bis è una tortura perché esattamente risponde a come l'ONU ha definito la categoria di tortura. Tortura sono vessazioni di carattere fisico o anche psichico, dirette o anche indirette, volte ad ottenere una confessione ed una delazione, quindi una collaborazione di giustizia. In effetti l'unico modo, e questo lo dicono i magistrati, perché la legge, cioè il decreto legge che introdusse il 41 bis permanentemente, perché precedentemente il 41 bis inizialmente come l'articolo 90 fu messo per come misura diciamo di isolamento totale, ma non superiore a 3 mesi era nella legge iniziale, e chiaramente che non poteva essere reiterata, quindi se c'è una rivolta, una cosa, si mette il 41 bis come appunto a qualche decennio fa mettevano l'articolo 90 per i mesi in cui c'è questa rivolta, e poi dopo si ferma, torni in regime ordinario. Invece poi è stata resa con un decreto del Presidente del Consiglio, è stata resa permanente, e l'unico modo per uscire al 41 bis, dice questo decreto, che è legge dello Stato italiano, che dice di avere alla sua base la Costituzione, ma non è vero, dice che appunto l'unico modo per uscire dal regime di 41 bis è fare il nome di qualcuno, da mandare in galera. Quindi il problema è questo: tu ti dice lo Stato, mandi fai la delazione, manda qualcuno in carcere a posto tuo dicendo che è una persona collusa o col terrorismo o con la malavita organizzata, e noi a te ti facciamo uscire dal regime, andando, ti mandiamo in regime ordinario e facciamo entrare quello. Quindi e questo è proprio il meccanismo che l'ONU, quando diciamo, esplicitò il concetto di che cosa è la tortura, disse proprio questo: non è soltanto dare botte indiscriminate o così, no, ma quando si richiede la confessione o la collaborazione di giustizia. Quindi qui esplicitamente è tortura il 41 bis, e alcune organizzazioni di solidarietà con i detenuti hanno fatto questo sit-in sotto il carcere dell'Aquila, perché è uno dei più che ha ha numeri consistenti di persone in 41 bis il carcere di L'Aquila. Inoltre in generale, in totale sono 700 le persone detenute prigionieri e prigioniere in 41 bis. Le carceri dove vi sono sezioni particolari sono queste qui, più o meno ve le racconto: Cuneo, Novara, Parma, Milano, Opera, Tolmezzo, Udine, Ascoli Piceno, Viterbo, Secondigliano a Napoli, Terni, Spoleto e L'Aquila, appunto, anche Rebibbia a Roma, a Sassari e il carcere di Bancali Nuovo. Questi sono le carceri, gli istituti penitenziari al cui interno è previsto, esiste un reparto, un regime di 41 bis. Il regime di 41 bis, abbiamo detto, viola tutte le condizioni italiane e internazionali con cui uno Stato dovrebbe detenere i prigionieri. Si fa un gran gridare, giustamente, no? Dopo che è stato assassinato in quel modo barbaro Giulio Regeni in Egitto, e molti giornali hanno detto vogliamo la verità, e ancora ovviamente non viene, perché quel regime, quello egiziano, è particolarmente feroce, è veramente dittatoriale, è andato al potere con un colpo di Stato, e poi insomma tratta non solo Giulio Regeni ma tutti i prigionieri, anche egiziani, non guarda ovviamente il passaporto, vengono trattati. Le carceri egiziane, diciamo, sono terribili, questo lo dicono un po' tutti, anche i giornalisti egiziani, con coraggio e spesso pagandone le conseguenze: vengono espulsi dall'albo, vengono messi in galera e così via. Però insomma le carceri egiziane fanno schifo. Questo non toglie che gli imprenditori italiani e anche lo Stato italiano intrattiene con l'Egitto, che tratta quindi dittatura, che non rispetta i diritti umani e così via, intrattiene dei commerci, degli interessi abbastanza proventi, producono profitto agli uni agli altri. Quindi questo allo Stato italiano, ma soprattutto anche all'imprenditoria italiana, alle banche italiane, non fa nessun effetto. Per loro l'unico principio sono i soldi, per le banche, per gli imprenditori lo stesso, i soldi arrivano dall'Egitto, quindi arrivederci, grazie, torturate chi volete, non è un problema. Ma il problema è che appunto questa Italia non è come cioè sul piano internazionale, mentre l'Egitto viene ritenuto più o meno da tutti come un regime dittatoriale che non rispetta i diritti umani, che non rispetta le norme con cui si dovrebbero detenere i detenuti, vengono torturati, massacrati eccetera, e questo provoca scandalo. In Italia, nel silenzio più totale, guardate che non è una battuta, il silenzio con cui in Italia, cioè il silenzio che in Italia circonda sia il problema del regime violento con cui del 41 bis, a cui vengono sottoposte oltre 700 persone, ed anche quell'altro meccanismo di tortura che è l'ergastolo ostativo, a cui sono condannate 1300 persone in tutto, sono quindi circa 2000 persone sottoposte a tortura quotidianamente. Ogni giorno che passa lo Stato italiano tortura circa 2000 persone, perché è quotidiana questa tortura. Bene, nel silenzio più clamoroso, più violento, che è un silenzio superiore al silenzio, perché era rotto quello da qualche fragore ogni tanto, che c'era in periodo fascista. Di questo dobbiamo prendere coscienza. Non è che appunto il fascismo viene quando uno Stato proclama, dice siamo qui in nome del fascismo, e quindi mette tutte le svastiche, i simboli stupidi che mette uno Stato. Però appunto, se vediamo alcuni elementi centrali, e il carcere ha un ruolo centrale, e andiamo a leggere, a rileggere, farebbe bene un po' a tutti, per esempio le lettere scritte dai resistenti italiani, gli antifascisti italiani, sia di area liberale che di area cattolica che di area comunista o socialista, quando scrivono dal carcere, ne abbiamo tantissime, non solo quelle di Gramsci, Vittorio Foa, Terracini, Pertini, e l'elenco è enorme, lettere dal carcere in cui raccontano le condizioni di vita, e raccontano pure che ovviamente le condizioni di vita a volte erano abbastanza normali, bisogna dirlo, a volte erano molto feroci e dure. Ebbene, e a queste, quando c'erano condizioni di feroce, c'erano delle proteste, non sui giornali perché erano bloccati dal regime, né sulla radio ovviamente, per la televisione non c'era, ma a livello internazionale girava la voce, non c'era internet, ma c'era molta più comunicazione tra persone di gran lunga superiore come quella che c'è sempre stata fino all'avvento di internet, che secondo me ha bloccato un po' la circolazione di comunicazione tra persone, al di là di quello che sembra. Spesso, come sapete, quello che sembra non corrisponde alla realtà. Internet sembra che ha moltiplicato la comunicazione, in realtà, anche perché è arrivato in un periodo in cui, diciamo, la comunicazione subiva delle grosse carenze per difficoltà, perché non aveva più niente da dire per tanti motivi, insomma. Comunque sta di fatto che l'avvento di internet coincide con un periodo di affievolimento della comunicazione, che era molto più forte negli anni 70, negli anni 60, ma di gran lunga, e perfino su temi scottanti, delicati come il carcere, la comunicazione, la protesta, la critica a ciò che faceva il fascismo nel carcere era superiore a quella che oggi si vede. Oggi i giornali sono tanti e cosiddetti liberi e non dicono niente, le televisioni sono ancora di più e formalmente libere, gli intellettuali dicono di essere tanti, io non ci credo, però sono tanti, professori, teoricamente ciascuno vorrebbe dire quello che vuole, professori, come dice, grossi persone, non dicono assolutamente niente. Questo silenzio opprimente, rifletteteci su questa cosa, è superiore a quello che c'era in epoca fascista nei confronti di come venivano tenuti i prigionieri allora. Questo è un dramma, un problema gravissimo. All'interno di questa situazione, una persona soltanto nel Parlamento italiano, per i suoi, diciamo, per la sua storia pregressa, Luigi Manconi, sapete tutti, è stato un dirigente, un compagno, un dirigente di lotta continua da giovane, e poi vabbè, ha cambiato strada tutta qua, però comunque probabilmente adesso che, insomma, comincia ad avere una certa età, ha delle reminiscenze della sua gioventù, dei grandi ideali di quel tempo. Ebbene, lui ogni tanto dice, ha proposto per esempio un affievolimento dell'ergastolo ostativo ed anche un'abolizione, tutti hanno detto no. Tutti, anche quelli che passano per sinistri, come per esempio il Movimento 5 Stelle, che sul terreno della giustizia è agghiacciante per quanto è reazionario, si combacia molto con le posizioni della Lega. È triste dirlo, ma è così. Se uno mette il dio della legalità, questo totem mostruoso, al centro del proprio ragionamento politico, è chiaro che fa questa fine, perché la legalità non può essere un totem, è dialettica, è dinamica, è variabile. La legalità deve correre appresso alla realtà, non è il contrario, che bisogna costringere la realtà a entrare dentro i gusci della legalità costruita su una realtà precedente. Quindi è una violenza spaventosa quella di gridare legalità come centro di una politica. Tuttavia, appunto, loro, vabbè, poi c'è è un problema che, siccome la gente pensa che i drammi della situazione italiana, la loro povertà, il loro malessere deriva dal fatto che c'è chi ruba, ovviamente non è vero, sono politiche sbagliate, politiche liberiste, politiche capitaliste, politiche tese al profitto, per quello la gente sta male, non perché qualcuno ruba, perché quello in realtà non porta grandi variazioni. Tuttavia, anche se in Italia, insomma, si sta un po' esagerando, ma non è comunque quello il nocciolo del problema. Quello è un cavallo che le forze politiche abbastanza stupide, e questo va detto che sono stupide, perché probabilmente non è che sono legate a qualche carrozzone di potenti, però per esempio il Movimento 5 Stelle, mentre la Lega è legata a carrozzoni reazionari e fascisti e quindi fa quel mestiere forcaiolo, il Movimento 5 Stelle lo fa per stupidità, però fa una pratica forcaiola perché semplicemente perché non hanno nessuna capacità intellettuale e né conoscenza storica di che cosa è l'ambito del rapporto tra giustizia e realtà. Comunque sì, andiamo, lo diciamo, Luigi Manconi ha fatto, come ha fatto per l'ergastolo ostativo, anche sul 41 bis ha presentato una lunga lunga relazione alla commissione del Senato della Giustizia, che lui tra l'altro presiede, e quindi la commissione senatoriale, e lui è senatore, sulla giustizia ha portato, perché l'ha discussa con gli altri commissari di questa commissione, appunto, che sono di vari partiti, ha portato degli alleggerimenti, ha proposto degli alleggerimenti sul 41 bis. Non c'era la forza per proporre un'abolizione, però ha degli alleggerimenti abbastanza sostanziali per rendere le condizioni di vita un po' meno violente e schifose di come appunto sono attualmente. Bene, nel momento in cui questa proposta della, un organo importante, la Commissione Giustizia del Senato, non è uno qualsiasi, che ha proposto queste modifiche di allentamento di alcune feroci, di alcune condizioni feroci, ebbene proprio in quel momento invece si è inasprita, non si sa bene chi, all'interno del Ministero della Giustizia, perché da lì dipende, qualche soggetto ha deciso di inasprire ancor di più il regime del 41 bis, per esempio quello di togliere l'unica cosa che avevano queste persone detenute in 41 bis, che era la possibilità di leggere, è l'unico modo di far passare le giornate per chi è costretto a stare 23 ore in cella e soltanto un'ora di passeggiare o solo con altra persona, quindi è chiaro che leggere è l'unica possibilità. Hanno tolto i libri. Proprio all'Aquila è partito questo disegno di ridurre i libri a due, non puoi avere più di due libri in cella, cosa abbastanza vigliacca se pensate, perché se uno legge e legge tutto il giorno perché altro non può fare, è chiaro che ma poi perché non si capisce l'attinenza, il rapporto tra sicurezza e libri da tenere in cella, quindi è del tutto violento, è proprio una violenza volontaria fatta dallo Stato per costringere queste persone a diventare dei delatori. Questo è il problema ed è una cosa che non si può fare, perlomeno la fanno in Egitto con la tortura o in altri paesi dittatoriali, però l'Italia diceva che non ha la tortura, invece poi ce l'ha. E un'altra cosa, poi non solo hanno ridotto il numero di libri da tenere in cella, ma hanno impedito la possibilità di ricevere libri all'esterno. Come sapete, i carcerati da sempre, chi ha fatto il carcere, ma anche nei carceri speciali, anche in articolo 90, anche allora ci avevano messo un limite di 5, tuttavia da fuori ci arrivavano libri, perché le persone per bene, la solidarietà, arrivava i libri e tu dovevi soltanto se ne avevi 5 dovevi restituire 2 e arrivavano quei 2 nuovi che leggevi. Ecco, no, non possono ricevere libri, perché? Perché questa ha a che fare con la sicurezza. Ora, nemmeno un cretino riesce a credere a questa cretinata, e infatti non è fatta perché la gente ci creda, perché non ci crede nessuno, è fatta perché per nascondere quello che è l'effettiva, la realtà, una realtà di cui questo Stato, questo governo e anche tutte le persone che si affidano, hanno delegato a questo Stato la direzione del paese, a queste istituzioni, in qualche modo sì, accettiamo la tortura, perché pensiamo che con la tortura in realtà sparisce la malavita organizzata e il terrorismo, cosa ovviamente non è possibile. Questo discorso lo riprenderemo in seguito, perché c'è stato tutto un grosso dibattito in America dopo il famoso 11 settembre, ricordate, no? In cui alcuni grossi giuristi, importanti giuristi, dissero che tutto sommato la tortura, se con la tortura si riesce a far parlare uno e impedire un attentato, ben venga la tortura. Poi questa cosa fu nascosta perché non sta nei, come dire, nelle maglie di regimi democratici, però è stata detta in convegni, cioè si voleva far passare, in parte è passata quando c'era ancora Bush, poi è stata un po' messa da parte, insomma, e poi ha prevalso, perlomeno a parole, anche lì a parole, la parte dei giuristi che dicevano no, non ha senso, perché se poi passa, cioè se c'è un'eccezione con cui si giustifica la tortura, poi questa passa e si dilaga dappertutto. Quindi sul piano, diciamo, della costruzione teorica non è passata, sul piano fattivo sì, perché Guantanamo esiste ancora e anche nelle carceri americane non augura a nessuno di andarci. got any proof? You didn't hear it, you didn't see it, you never heard it, not a word of it. You won't say nothing to no one, never tell a soul what you know is the truth. Got a feeling 21 is gonna be a good year, especially if you and me see it in together. Got a feeling 21 is gonna be a good year, especially if you and me see it in together. I had no reason to be over optimistic, but somehow when you smiled I could brave bad weather. Bene, penso, spero che vi sia piaciuto questo pezzo degli U, ricordate U che si chiamava Tommy. Dunque, sta sentendo le chitarre, insomma, si capiva abbastanza. Dunque, per fortuna ogni tanto una notizia piacevole, migliore. Qui ed anche un modo per riflettere, no? La notizia dice questo: due ragazzi evasi dal carcere minorile Beccaria di Milano. Due detenuti, la cui identità non è stata resa nota, ovviamente, e meno male che il giornalista se ne è accorto, risultano ufficialmente evasi dal carcere Beccaria di Milano. L'altra sera i due ragazzi stavano rientrando da un permesso assieme ad un insegnante e un'operatrice. L'operatrice è quella che ha denunciato l'evasione, ovviamente stavano rientrando con questi due funzionari del carcere, sono scappati e se sono resi. Il problema è qual è, però? Attenzione, riflettete su questo. Loro tra qualche giorno avrebbero avuto la fine della pena, quindi sarebbero usciti ufficialmente. Evidentemente hanno deciso che quel giorno andava bene a loro due ritrovare la libertà, non che ne so, fra 10 giorni, 15 giorni, che non è un numero tremendo, però perché perché non quel giorno? Probabilmente questo giugno che ci ha riservato giornate spettacolari con cielo azzurro, che so, il sole, qualcosa di piacevole da andare a rotolarsi sui prati invece di tornare in carcere e poi aspettare tutto il rituale farraginoso di andare in matricola e della scarcerazione ufficiale, no? Andare in matricola, firma qua, rimpronte di nuovo, eccetera, eccetera, perquisizione. E hanno deciso che per loro era arrivato il giorno della libertà e se la sono data a gambe. Non sono stati ancora trovati, perlomeno ancora non lo riportano i giornali. Ora, ovviamente i sindacati della Polizia Penitenziaria hanno detto: ecco che cos'è, le conseguenze dello smantellamento delle politiche di sicurezza. Ora, uno, volete che poi uno accetti tutte le posizioni? D'accordo, possiamo accettare, ma perlomeno accetto tutti i ragionamenti che abbiano una logica interna, cioè un ragionamento deve avere, qualunque baggianata dica, deve avere una sua logica interna. Se mi dici sono scappati dei ragazzi che fra 15 giorni sarebbero stati scarcerati, che ci azzecca la sicurezza? Dove l'hai trovata? Perché la testa non ti prendi un'aspirina e conti fino a 5.000 prima di aprire bocca? Perché aprire bocca non significa far prendere un po' di fiato ai denti, ma significa provare a mettere in moto quei 3-4 neuroni che gli sono rimasti in testa. Quindi non dite cavolate. Che c'entra lo smantellamento delle politiche di sicurezza? Questi sono andati via semplicemente perché quel giorno gli piaceva, gli pareva il giorno adatto per ritrovare la libertà e l'hanno scelto e l'hanno praticato, invece di aspettare questi 15 giorni, che appunto che non è un'eternità, però non gli andava di aspettare. Che vuol dire questo? Vuol dire anche a che serve quindi il carcere in generale, ma in questo caso il carcere minorile dei ragazzi. Non riuscite a cambiarli, riuscite forse a spaventarli, a terrorizzarli col carcere, questo sì, in qualche modo a annichilire le loro potenzialità. In questo caso non ci sono riusciti, per fortuna, e questi ragazzi hanno ritenuto che il giorno per la libertà lo dovessero scegliere loro, non altri. We'll be right back. Allora, di nuovo in diretta 15:43. Dunque, secondo il sociologo Maurizio Barbagli, che non è uno di quelli, diciamo, che libertario, ecco, mettiamo così, è uno che ragiona, che contempla, secondo lui, la punizione, il carcere, eccetera. Tuttavia, essendo un sociologo molto serio e avendo fatto la ricerca, e quindi una persona seria si fa guidare dai dati, dalla realtà, non il contrario, quelli che cercano di infilare la realtà in un guscio che non può contenerla. E dunque dice che la percezione di una società dominata dalla violenza in Italia, una percezione che gira, che si dice che la gente percepisce una società dominata dalla violenza, è falsa, è indotta, è completamente falsa e indotta, perché i dati dicono il contrario. Il tasso degli omicidi, dice Barbagli, è il più basso degli ultimi sei secoli, il più basso. Cioè, questi ultimi anni hanno contato il numero di omicidi, il tasso di omicidi il più basso degli ultimi sei secoli. Prima non c'erano le rilevazioni, prima dei sei secoli, quindi non si può sapere. Dunque, dice che addirittura questo dato non era stato previsto da nessuno, e neppure i più ottimisti speravano 10-15 anni fa che il tasso degli omicidi, cioè dell'aggressione contro le persone, fosse diminuito in maniera così forte. È interessante. Il problema, dice Maurizio, è che pochissimi osservatori hanno preso sul serio questo dato e continuano a spargere questa idea della violenza, inducendo paura, raccontando, cioè la cronaca nera ha preso più spazio nei giornali e sulla televisione, anche se la realtà dimostra che invece ha meno importanza rispetto alle altre notizie. Però nei giornali, nei media in generale, assume un'importanza maggiore. Quindi c'è qualcosa, e non si fa soltanto perché se parli di cronaca nera il giornale si vende di più, quel programma, quella televisione c'ha più ascolto, ma anche perché c'è qualcosa sotto, non un complotto, ma semplicemente il fatto che avere una popolazione dominata dalla percezione, quindi dalla paura, dalla percezione di una società violenta, quindi dominata dalla paura, rende quella popolazione più facilmente governabile e manovrabile da parte dei poteri, che ovviamente hanno tutti gli interessi che le popolazioni siano passive, silenziose, eccetera. Bene, e poi passa ai dati, dice sono scesi ancora anche nell'ultimo anno, da 475 sono passati a 468, addirittura dal dal 92, da 20, quindi 23 anni fa, il tasso di questo reato, cioè dei reati contro la persona, hanno conosciuto una continua inarrestabile flessione. Questa è la realtà. Tuttavia, appunto, si continua a raccontare che invece c'è la società violenta, che questa bisogna stare chiusi dentro casa, più si sta chiusi, e perché stando chiusi avendo paura dell'esterno, si produce una mentalità che è una mentalità conservatrice, inadatta al conflitto sociale, che non spera in un cambiamento, in un miglioramento, che si accontenta di quello che ha, che è capace di delegare ad altri punto e basta, e poi si barrica dentro casa. Vabbè, questi sono i dati e questa è un po' la miseria che circonda questo fatto, però lo sappiamo, ma non è una novità e non lo diciamo noi, l'hanno detto dei grandi studiosi diversi, circa 50 anni fa, pure di più, hanno detto che gli stati moderni sono in balia dei media, di questo battage mediatico che fa vedere una realtà per un'altra, cioè che nasconde la realtà vera e la sostituisce con un'altra finta. E purtroppo questa cosa, ma non soltanto sulla notizia Fincovallino, che so, la vendita delle armi, qualche cosa, no, in generale proprio come percezione complessiva della realtà. La percezione di, cioè la paura, la percezione diffusa tra la popolazione di stare in una società in cui da un momento all'altro scatta qualcuno dal buio per aggredirti, ecco, questa è intanto è il contrario della realtà, perché non è così, da sei secoli è migliorata, non è più così, e in più rende questa persona incapace di aggregarsi, e siccome le lotte, i conflitti si fanno per la strada legandosi agli altri, la paura dell'altro ti fa chiudere, quindi non essendoci più forme collettive non ci potrà essere conflitto. Questo è il dato reale ed è grave, perché diciamo quello che io poi mi sento di dire, capisco che è un po' antipatico, che però nemmeno la gran parte del movimento di quell'area, diciamo, che critica l'esistente e che vorrebbe cambiarlo, c'è un ribaltamento di questa percezione anche da parte del movimento. Si induce la paura, attenzione, qui aumentano i crimini, aumentano le aggressioni. Non è vero, diminuiscono totalmente. L'unica cosa che aumenta sono i reati contro il patrimonio, cioè i furti. Ma i furti non dovrebbero spaventare nessuno, perché i furti al supermercato, ma chi devono spaventare? Ma no, siamo seri, no? Eppure però, siccome i padroni dei supermercati sono quelli che contano e spesso hanno anche i giornali in mano, è chiaro che a loro interessa far circolare quella paura. Poi in generale, come ho detto, con la paura si governa bene, molto molto bene. Can you hear me? Tell me, can you hear me? Tell me, can you hear me? Tell me, can you hear me? Can you hear me? Allora, 15:52, andiamo avanti. La notizia è questa: petizione con 223.000 adesioni. Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano Cucchi, ucciso in detenzione, si è recata da Orlando, ministro della giustizia, con le firme per sollecitare il reato di tortura. Ecco, leggiamo la notizia: oltre 223.000 firme a sostegno della petizione lanciata per l'introduzione del reato di tortura in Italia sono quelle consegnate dall'area Cucchi al guardasigille Andrea Orlando, cioè il ministro della giustizia, eccetera eccetera. Ho incontrato il ministro della giustizia, ho consegnato le sottoscrizioni, ha detto Ilaria Cucchi, spiegando che all'incontro era presente anche l'avvocato Fabio Anselmo, che ha ricordato quanto il nostro paese abbia bisogno di una legge sulla tortura. Sta passando un concetto per cui una legge di questo tipo legherebbe le mani alle forze dell'ordine impedendo di garantire sicurezza ai cittadini. Questo è un messaggio sbagliato. La sicurezza parte dal rispetto dei diritti umani e tutta Europa si sta guardando su questo punto, così ha detto Anselmo. Ora, una riflessione va fatta. Prima domanda: perché delle persone, in questo caso Ilaria Cucchi e Fabio Anselmo, fanno questa cosa? Ora, è un'iniziativa ragionata, studiata, attenta a quello, alla realtà che sta succedendo, oppure serve soltanto, come dire, a sponsorizzare la propria figura personale? Il sospetto è notevole, perché il reato di tortura l'abbiamo seguito, chi ascolta questa trasmissione ne sa esattamente di più perché l'abbiamo analizzato, tutte le proposte presentate a suo tempo qualche anno fa al Parlamento, poi la Commissione Giustizia che ha selezionato, scartando quelle più quelle che rispondevano meglio a ciò che aveva detto l'ONU per introdurre il reato di tortura. Ricordiamo quella dichiarazione dei diritti umani firmata anche dallo Stato italiano. E poi, con tutto il battage, i passaggi tra Senato e Camera, questa proposta di legge per introdurre il reato di tortura è stata completamente svuotata. Abbiamo analizzato a fondo per più di una trasmissione, per tante trasmissioni. Attualmente quella proposta di legge per introdurre il reato di tortura è la cosa peggiore che c'è, molto peggio che di non esserci. Perché? Perché quella proposta, se dovesse essere approvata, quella proposta, al di là delle guardie che baccagliano sempre, ma queste loro lo fanno per portare a casa una legge ancora peggio, è stata completamente svuotata. Primo, non riguarda soltanto le forze dell'ordine, mentre invece l'ONU chiedeva che la legge di tortura riguardasse soltanto le forze dell'ordine, perché deve riguardare quelle persone che hanno in consegna un'altra persona, un cittadino, cioè chi ha in possesso un'altra persona ed esercita nei confronti di questa delle malversazioni volte a ottenere la confessione, può far scattare il reato di tortura. Non una persona qualsiasi, un cittadino che esce per strada e mena un altro, quello ha tutte altre già tipologie di reato che possono incolparlo. Quindi è un reato. Primo punto questo, quindi diventa un reato normale, non specifico per le forze dell'ordine. Secondo, la proposta di legge attualmente così l'unico disegno di legge, gli altri l'hanno scartati, esistente, parla di afflizioni morali e materiali reiterate, cioè una sola seduta di tortura, cioè se prendi uno, l'ammazzi che botte e lo torturi per farlo parlare una volta sola, però non è detto quanto dura, può durare anche 12 ore, 24, 36, 48 eccetera, non basta, deve essere reiterata, cioè deve essere fatta più volte, solo in questo caso scatta. Questo è il secondo punto che lo svuota completamente. Il terzo punto è che deve essere convalidato il fatto, esplicitato con testimoni, che tutte quelle sevizie servivano a ottenere una confessione. Quindi praticamente sarebbe impraticabile, e molti, l'abbiamo detto appunto, l'abbiamo raccontato più volte, molti giuristi, molti penalisti anche, hanno analizzato quel disegno di legge dicendo se venisse approvato questo non scatterà mai, e hanno fatto i confronti con fatti successi, per esempio Bolzaneto, ricordate tutti, no? Genova 2001, i ragazzi e le ragazze torturate a Bolzaneto, lì non sarebbe scattato perché non è stato fatto una volta sola, una notte sola, non reiterato. Quindi primo punto. Secondo punto, non era volto a ottenere una confessione, ma semplicemente a massacrare dei ragazzi e delle ragazze in modo che smettessero di fare attività, militanze eccetera. Quindi come vedete non sarebbe scattato nemmeno lì, e in nessun'altra occasione concreta sarebbe scattato, perché questo, passando appunto dalla Camera dei Deputati al Senato e viceversa, con la pressione degli agenti, dei sindacati, delle forze dell'ordine, che sono un bacino elettorale consistente, ha chiesto ai partiti politici che gli hanno dato retta, che hanno dato retta alle organizzazioni delle guardie, di togliere tutti gli elementi che potevano essere pericolosi. Quindi attualmente questa legge è meglio che non passa. Perché? Perché il fatto che non ci sia una legge sulla tortura può mette in moto la critica degli organismi internazionali allo Stato italiano e quindi spingere in qualche modo a darsi da fare per formulare, produrre qualcosa di più intelligente di quella che c'è. Se venisse approvata questa, poi è chiuso, cioè il reato di tortura l'abbiamo messo, basta, non servirà a niente, non serve a nessuno, buonanotte, abbiamo risposto. Quindi queste iniziative, io francamente non voglio fare malevolo quello che dice che c'è dietro, però è ovvio che si capisce che servono più a dare così, come dire, a ingrandire la povertà di queste persone che cercano di farsi belle così cavalcando temi che nemmeno conoscono e che non hanno nessuna capacità di capire e che non nemmeno li studiano, nemmeno leggono, nemmeno si informano, ma semplicemente per farsi grandi, belli e raccogliere la delega, il consenso di persone disperate che dicono vabbè, ma questi almeno parlano di tortura, gli altri manco ne parlano. Non è così, le cose o vanno fatte bene o non vanno fatte, questo è il mio parere. Io penso che dovremo prendere in mano questo come tutti gli altri temi della giustizia, che sono tantissimi e che più volte abbiamo sollevato da questi microfoni, torneremo a parlarne. Tutti quanti ruotano intorno ad un cambiamento radicale del rapporto di forza tra la realtà sociale che diciamo ha a che fare, è prossima alla violazione della legge, sia per il conflitto sociale sia per la vita concreta, e le strutture statali che sovrintendono alla repressione. Questo è lì che va portato, perché l'avete visto in questi giorni, continua a piovere, l'avevamo previsto purtroppo, ma non è per farsi, era normale prevederlo, chiunque si fosse soffermato a ragionare avrebbe previsto che la repressione si sarebbe scatenata sul terreno delle misure cautelari, cioè quelle di polizia, le firme, l'obbligo di dimora, la difficoltà di movimento, si sarebbe spostato su questo terreno e si sta spostando su questo terreno. Sono decine e decine che piovono ogni giorno a Pisa, a Milano, a Torino, a Roma, di misure cautelari di sicurezza, che sono misure di polizia, non da...